Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Lungo colloquio tra Renzi e Napolitano, poi il conferimento dell'incarico al segretario del Partito Democratico. Ancora qualche giorno, dice, per sciogliere la riserva. Entro febbraio le proposte sulla riforma della Costituzione, entro marzo quelle sul lavoro, l'emergenza è quella occupazionale, dice il premier incaricato. La Sardegna al voto ieri, affluenza bassissima e dati molto in ritardo. A mezzogiorno scrutinate, o meglio, adesso scrutinate circa il 10% delle sezioni. Colpa della complessità del sistema e delle procedure, spiegano dalla regione. Nuovo calo per lo spread e per i rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni, ai minimi dal febbraio del 2006. Lievemente negative le borse, bene Luxottica sulla notizia che Andrea Guerra resterà alla guida dell'azienda. L'antitrust ha mutato Ryanair e EasyJet, motivo mancata trasparenza sulle offerte assicurative facoltative, oltre 1 milione di euro tra tutti e due. Si chiude l'inchiesta sull'incidente di Michael Schumacher, nessuna infrazione, tutto avvenuto fuori pista, segnaletica conforme alle regole, dice il procuratore. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti che se volete potete commentare come sempre al 349-238-6666 via SMS oppure sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Ampio spazio naturalmente nella giornata di oggi alla politica dopo l'incontro di questa mattina di Matteo Renzi con Giorgio Napolitano e il conferimento dell'incarico. Ci colleghiamo col nostro Vincenzo Miglietta per fare il punto di questa giornata. Vincenzo, eccoci. Sì, buongiorno, un incarico con riserva, quello accettato da Matteo Renzi, salito al colle intorno alle 10.20, quasi due ore poi di faccia a faccia con il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, sino all'annuncio del Segretario Generale del Quirinale Marra. Quindi le parole di Renzi che non ha nascosto l'impegno che lo attende, un impegno che la coalizione di governo dovrà prendersi per tutta la legislatura. Per questo, ha spiegato Renzi, è fondamentale che le forze politiche di maggioranza siano ben consapevoli dei prossimi passaggi. Ma ascoltiamo Renzi. L'impegno che immaginiamo è quello di un allungamento della prospettiva politica di questa legislatura, che poi è quella che si colloca nell'orizzonte naturale previsto dalla Costituzione, e pertanto prima di qualsiasi discussione è fondamentale che le forze politiche della maggioranza per quello che riguarda il governo e di tutto l'arco costituzionale per quanto riguarda il profilo delle riforme siano ben consapevoli dei prossimi passaggi. Significa cioè avere nelle prossime ore una straordinaria attenzione ai contenuti e alle scelte da fare. Ci prendiamo il tempo necessario sapendo che fuori da qui il senso dell'urgenza è straordinariamente delicato e importante, ma è anche altrettanto vero che un orizzonte di legislatura come quello che ci diamo necessita, per quello che ci riguarda, di qualche giorno di tempo per arrivare a sciogliere la riserva. E Renzi da domani avvierà le consultazioni con le forze politiche, in questi minuti sta invece vedendo i presidenti di Senato e Camera, ma il premier incaricato nella sua breve dichiarazione ha fatto anche il punto sulle priorità che ha davanti il suo futuro esecutivo. Sentiamo quali allora. La piattaforma con la quale discuteremo assieme alle forze politiche è quella che prevede entro il mese di febbraio un lavoro urgente sulle riforme costituzionali e elettorali da portare all'attenzione del Parlamento e da subito dopo, nei mesi successivi, immediatamente nel mese di marzo la questione del lavoro, nel mese di aprile la riforma della pubblica amministrazione, nel mese di maggio quella del fisco. In altri termini, abbiamo intenzione di lavorare in modo molto serio sui contenuti prima di qualsiasi discussione. Riforme, lavoro, pubblica amministrazione e fisco, le priorità dunque per il presidente incaricato, un'attenzione ai contenuti, ha spiegato Renzi, che necessariamente prenderà qualche giorno per la definizione della squadra di governo. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, vediamo di commentare questa giornata, o almeno questa mattinata. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno Simone. E bentornato. Dunque, questi gli obiettivi di Renzi, decisamente ambiziosi, governo di legislatura, già un cronoprogramma con le riforme che vorrebbe fare entro maggio, e però un quadro politico da comporre che non è per nulla facile. Beh, intanto bisogna riconoscere che lo stile di Renzi è stato innovativo, spigliato, dinamico, concreto, Onestamente non ci si poteva aspettare di più stamattina. Poi naturalmente ci sono i nodi, sappiamo quali sono, però alcune indicazioni sono state date. L'orizzonte della legislatura naturalmente dipenderà poi da mille circostanze, strada facendo, di qui al 2018 c'è molta strada da fare, però è bene che il Presidente incaricato sia stato molto esplicito su questo punto. E poi è importante anche quella distinzione tra le due maggioranze, quella per le riforme in Parlamento e quella, diciamo, che deve invece gestire il governo, più ristretta. Sono due passaggi, queste due maggioranze devono convivere, riuscirci non sarà semplice, però mi è piaciuto che Renzi non si sia nascosto i problemi, abbia detto con chiarezza qual è il suo orizzonte e quali sono anche i suoi obiettivi, molto ambiziosi certo, ma in questo momento lui deve dimostrare ambizione, non può farsi stringere nel piccolo cabotaggio del litigio sui ministeri, deve dare al suo governo subito una prospettiva alta. Grazie Stefano Folli, vedremo che cosa succederà dunque nelle prossime ore e come andranno gli incontri appunto con gli altri partiti. Ospiteremo esponenti delle altre possibili componenti della maggioranza più avanti nel corso della trasmissione. Vi voglio dare due aggiornamenti importanti, notizie appena battute. La prima riguarda una vicenda che incrocia giustizia e politica, perché la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio del senatore Maurizio Gasparri per peculato. L'accusa fa riferimento all'appropriazione, la vicenda la ricorderete, i 600.000 euro destinati al funzionamento del gruppo del PDL e lui li avrebbe utilizzati per una polizza vita a lui intestata, soldi che il parlamentare ha poi restituito in due tranche. L'altra notizia riguarda ancora una volta i nostri titoli di Stato, perché lo spread tra BTP e Bund è sceso fino a 191 punti base, con il tasso sul decennale del Tesoro che cala al 3,60%. È la prima volta dalla fine del gennaio 2006. Come al solito sui mercati torneremo più avanti. Sulla vicenda politica e su Renzi, questa mattina in una lunga intervista che naturalmente ha tenuto dentro anche altri elementi, Giovanni Minoli ha chiesto un'opinione all'imprenditore Guido Barilla in Mix24. Ascoltiamo. È un bene, Renzi è un giovane politico pieno di entusiasmo e di energia. Io spero per l'ennesima volta che qualcosa possa succedere. Cosa si aspetta da lui? Mi aspetto dedizione ed energia. Io penso che l'Italia sia, qualcuno l'ha chiamata una palude, un pantano, sono d'accordo. Il nostro è un paese drammatico per molti aspetti. Un'energia rivoluzionaria. Ci vuole un'energia rivoluzionaria. Renzi potrebbe averla, secondo lei? Potrebbe averla, spero. Spero che ce l'abbia, che abbia il coraggio di poterlo fare. Lo conosce? L'ho conosciuto un paio di volte e l'ho stimato per come l'ho conosciuto. Ecco Barilla, ma su cosa dovrebbe puntare in concreto subito Renzi? Io penso che il valore inestimabile che l'Italia ha è il suo territorio. Il territorio vuol dire parecchie cose, vuol dire il turismo, vuol dire l'arte, vuol dire la cultura, vuol dire il ritorno anche al territorio. Noi stiamo dilaniando questa nostra Italia e bisogna ritornare al paese, al territorio. Dovrebbe essere l'unica vera grande idea da portare avanti. Così dunque Guido Barilla. L'altra vicenda politica di queste ore è quella della Sardegna, ma sulla quale ancora non abbiamo chiarezza, perché lo scrutinio va lentissimo. Valentina Furlanetto, è così? Sì, è così Simone, in effetti lo scrutinio è molto lento. Al momento su 234 sezioni scrutinate su 1836 il candidato Francesco Pigliaru del centrosinistra ha ottenuto il 45% contro il 36% di Ugo Capellacci centrodestra, e Michela Murgia è ferma di Sardegna Possibile, è ferma al 10%, ma insomma 234 sezioni su 1836 sono molto poche. Per dare un'idea di quanto a ritmo lento procede allo scrutinio, basta considerare che alle 11 erano state scrutinate appena 17 sezioni su 1836. Tutta colpa, dicono in regione, della complessità delle procedure della legge elettorale. Così dice la regione in una nota: ci sono rigidi criteri per lo spoglio da seguire, dicono. Di certo c'è l'astensionismo, ha votato appena il 52% degli aventi diritto contro il 67% delle analoghe consultazioni del 2009. La provincia dove si è votato di più è Nuoro con il 56%, Maglia Nera invece per Carbonia Iglesias, che si è fermata al 48%. Grazie alla nostra Valentina Furlanetto. Allora, innanzitutto un altro aggiornamento che arriva dalla vicenda di cui vi riferivamo poco fa, ossia la richiesta di rinvio a giudizio per Maurizio Gasparri. In una memoria difensiva sostiene di non essersi appropriato di nulla, così appunto Maurizio Gasparri. Noi veniamo all'economia e veniamo alle notizie dal Giappone, perché questa mattina sono arrivate notizie economiche importanti e riguardano il prodotto interno lordo. Sentiamo. Il Giappone dell'Abenomics comincia a deludere le aspettative non solo in borsa ma anche sul fronte macroeconomico. Nel trimestre ottobre-dicembre il prodotto interno lordo giapponese è cresciuto solo dello 0,3% sui tre mesi precedenti, meno della metà rispetto alle attese degli analisti. Nell'intero 2013 l'economia giapponese ha avuto un'espansione dell'1,6%, invidiabile dal nostro punto di vista, ma meno brillante di quanto ci si potesse attendere dopo i massicci stimoli fiscali e monetari promossi dal premier Shinzo Abe. Come la borsa giapponese è passata dall'essere la più brillante del 2013 a essere la più deludente dall'inizio di quest'anno, così l'economia di Tokyo rischia di battere in testa, visto che è attesa una contrazione nel secondo trimestre di quest'anno a causa dell'aumento dell'IVA che scatterà il 1° aprile. Il governo sta correndo ai ripari con la solita ricetta, una seconda manovra di stimoli pubblici appena varata, mentre la banca centrale ricomincia a pensare a un ulteriore allentamento monetario in primavera. Stefano Carrer, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tokyo. Nuove nubi si addensano sulle compagnie low cost. EasyJet e Ryanair si sono beccate una multa dall'antitrust, 1 milione di euro complessivamente, circa 1 milione di euro. Gianni Dragoni, buongiorno, del Sole 24 Ore. Come mai? L'accusa per cui l'antitrust ha multato 850.000 euro Ryanair, 200.000 EasyJet, è diciamo, la mancanza di trasparenza, o se vogliamo chiamarla furbizia, nel offrire insieme al biglietto che si compra via internet, quindi spesso il consumatore insomma, come dire, non può consultarsi, quindi venivano fornite delle informazioni, secondo l'antitrust, ingannevoli in violazione del codice del consumo. In particolare c'era un'offerta di una polizza di assicurazioni abbinata al biglietto per coprire diciamo, il rischio di annullamento del viaggio, ma secondo quello che ha stabilito l'antitrust non era chiaro quali fossero i rischi coperti, e poi c'era una franchigia, cioè una somma che non sarebbe comunque stata rimborsata, però alta rispetto al prezzo del biglietto, e tutto questo non era chiaro, quindi diciamo il tentativo di vendere, di alzare il prezzo del biglietto, che basso, per questo si chiamano low cost, ma con altre voci che poi non davano in sostanza nulla al consumatore. Tra l'altro Ryanair ha già naturalmente annunciato ricorso, come probabilmente era prevedibile, no? Era possibile, visto anche l'importo. EasyJet ha avuto una multa più bassa, un quarto, 200.000 contro 850.000 di Ryanair, perché, dice l'antitrust, nel corso del procedimento, che è durato diversi mesi, ha modificato le informazioni sul sito web di vendita dei biglietti, quindi in qualche modo evidentemente ha cercato di adeguarsi alle contestazioni dell'antitrust. Grazie a Gianni Dragoni per questi aggiornamenti. Noi abbiamo parlato del Giappone per la cronaca economica dall'estero, e noi restiamo all'estero per parlare delle tre motovedette cinesi che questa mattina sono state individuate nelle acque territoriali delle Senkaku. Sono le isole nel Mar Cinese orientale controllate da Tokyo e rivendicate da Pechino. Quindi nuovi fronti di tensione tra Pechino e Tokyo. Si tratta, secondo la Guardia Costiera Nipponica, del 78° blitz da quando è scoppiata la crisi dopo la nazionalizzazione delle isole decisa da Tokyo a settembre 2012. Parliamo adesso invece di un attentato ieri nel Sinai in Egitto. Riacuisce la tensione in una zona fondamentale per il turismo, a due passi da zone tra l'altro molto frequentate dagli italiani, che è una risorsa economica essenziale per il paese. Il commento di Ugo Tramballi. Il ministro del turismo egiziano si augura che l'attentato di ieri nel Sinai, nel quale sono state uccise due guide turistiche coreane e una locale, sia un episodio isolato. In realtà quello che è accaduto ieri, non lontano dalla frontiera israeliana, è già uno dei tanti episodi di uno scontro senza quartiere tra terroristi islamisti e governo egiziano. È in corso da un paio d'anni e si è intensificato l'estate scorsa dopo il colpo di stato militare che ha esautorato il governo dei fratelli musulmani al Cairo. È una guerra ormai che ha reso ad alto rischio tutta la zona nord-orientale della penisola. Il luogo in cui è avvenuto l'attentato non è dove oggi dovrebbero passare dei turisti. Per motivi di sicurezza le autorità hanno chiuso la frontiera israeliana. Le azioni dei qaedisti e di alcune tribù beduine loro alleate non hanno raggiunto il resto del Sinai solo perché la regione turistica del sud è pesantemente presidiata dall'esercito egiziano. Gli israeliani, non meno preoccupati degli egiziani, stanno dando un aiuto logistico e soprattutto di servizi segreti ai militari egiziani. Nessuno lo dice, ma da quando al Cairo comanda il generale Al-Sisi c'è grande collaborazione tra i due paesi. Abbiamo ancora molto da raccontarvi a partire dalla chiusura dell'inchiesta sulla caduta in sci di Michael Schumacher, passando per il nuovo riconoscimento al film La grande bellezza di Sorrentino, poi Sochi con Vladimir Luxuria che è stata in stato di fermo per aver sbandierato una bandierina insomma a favore dei diritti degli omosessuali, e poi torneremo sulla politica, ma dopo la viabilità. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Come previsto, Giorgio Napolitano ha conferito l'incarico per formare un nuovo governo al segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, ancora qualche giorno, dice lui, per sciogliere la riserva, e ancora entro febbraio le proposte sulla riforma della Costituzione, entro marzo quelle sul lavoro, entro aprile quelle sulla pubblica amministrazione e a maggio quelle sul fisco. La Sardegna al voto ieri, affluenza bassissima, i dati sono molto in ritardo, a questo punto circa un 10% delle sezioni sono state scrutinate. Nuovo calo per lo spread e per i rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni ai minimi da gennaio del 2006. Si chiude l'inchiesta sull'incidente di Michael Schumacher, nessuna infrazione, tutto è avvenuto fuori pista, segnaletica conforme alle regole, dice il procuratore. E veniamo a questo punto alle Olimpiadi di Sochi. Sochi 2014. Maria Pia Vals Beltran, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, tu pensavi strettamente sì. Sportivo, vi comunichiamo che le gare di snowboard che vedevano impegnato Visentin come principale atleta che poteva avvantare la medaglia sono state cancellate a causa del maltempo. Senti Maria Pia. Maria Pia, ci sei? Sì, ascoltaci, che ogni tanto ti parliamo. In realtà tu pensavi di doverti occupare di sport, invece ti portiamo su altro noi, sulla Luxuria. Vai. Che cosa è successo? Mi chiedi di Vladimir Luxuria? Certo, naturalmente. Vai. Beh, la notizia, come avete sentito nelle precedenti edizioni dei radiogiornali, è che la scorsa sera Vladimir Luxuria è stata fermata dalle autorità locali russe perché seguiva le gare delle Olimpiadi con un cartello in cui c'era scritto gay ok in cirillico, quindi in russo. È durato poche ore il fermo per quanto riguarda l'attivista e polizia italiana, perché è stata rilasciata durante la notte. Ci è stato riferito che la sua presenza qui a Sochi era stata voluta dalle due conduttori del programma Le Iene, proprio per far capire come andava la situazione qui in Russia, visto il gran parlare che si è fatto dell'episodio prima dell'inizio dei giochi. Quindi l'episodio è il primo in cui si viene a sapere di qualche cosa relativo al movimento in favore degli omosessuali, e quindi chiaramente ha suscitato l'interesse anche della stampa internazionale. Vedremo, perché poi lei ha promesso che questa sera sarà la partita di hockey vestita arcobaleno, e quindi vedremo che cosa succederà. Grazie per oggi, anche per oggi, a Maria Pia Vals Beltran. Roberto Formigoni del nuovo centrodestra, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, si sente, ci dica subito questo, si sente un utile idiota? Guardi, francamente utile sì, idiota no, utile sì, utile a un disegno di rinnovamento profondissimo del centrodestra, perché anche questi insulti di Berlusconi dimostrano che bisogna veramente archiviare una stagione che ha avuto delle luci ma anche tantissime ombre. Bisogna costruire qualcosa di diverso, centrato sull'interesse dei cittadini piuttosto che su polemiche di partito. La vede facile per Renzi o difficile? Io sono complessivamente ottimista, certo Renzi si è assunto su di sé un compito molto gravoso, molto importante, però sono convinto che possa dare una scossa positiva. Ci sono alcuni aspetti dell'irruenza, del carattere, a volte della brutalità di Renzi che in alcune condizioni possono servire, mi auguro sia così. Certo, Renzi deve capire. Ma le ricorda, Formigoni, da come ne parla? Le ricorda un po' il primo Berlusconi? Per tanti aspetti sì, io credo che si siano presi anche per questo aspetto, perché si sono riconosciuti l'uno nell'altro. Il primo Berlusconi è stato un personaggio assolutamente positivo che ha dato comunque una scossa al paese. Renzi deve stare attento a non ripetere gli errori di Berlusconi, il che pensi mi non ha funzionato con Berlusconi, non può funzionare con Renzi, il faso tutto mi. No, Renzi ha accettato di essere presidente del Consiglio di una coalizione, e di una coalizione strana, irrituale, perché mette insieme il centro-sinistra e la parte ragionevole del centrodestra, quindi è una coalizione eccezionale che è giustificata dalla crisi eccezionale che l'Italia sta attraversando. Bisogna cercare delle soluzioni condivise, forti, il più rapide possibile per aiutare l'Italia ad uscire dalla crisi economica. Quindi le larghe intese, vede, da questo punto di vista possono dare dei buoni risultati, sì, come l'hanno dato in Germania all'inizio del secolo. Senta Formigoni, allora naturalmente ci sarà la discussione sui contenuti, ma immagino che come nuovo centrodestra vogliate anche posti, ministeri o no? Ma è veramente il secondo aspetto. Noi innanzitutto vogliamo dei contenuti chiari, vogliamo un programma alla tedesca, lo andiamo ripetendo da due settimane, cioè scritto nero su bianco, un programma chiaro in cui si dice che cosa si fa, chi lo fa, in che tempi lo si fa, e misurarci su questo. Poi se ci troviamo d'accordo sul programma, ci vorrà il suo tempo, qualche giorno, per scrivere bene il programma, individueremo insieme gli uomini migliori per realizzare quel programma. Grazie Roberto Formigoni del Nuovo Centrodestra, buona giornata, e saluto Benedetto della Vedova, portavoce di Scelta Civica, benvenuto. Buongiorno. Col quale riprendiamo in realtà quello che abbiamo appena detto con Formigoni, perché mi sembra che anche la vostra richiesta sia la stessa, cioè volete un patto di coalizione stile tedesco. Ma guardi, detto così potrebbe fare sorridere, ma noi la proposta con Monti l'avanzammo credo massimo a luglio con il governo Letta, la reiterammo a ottobre, un patto di coalizione per un orizzonte di legislatura, poi anche a dicembre fino a gennaio, ma questo lo dico perché per noi era da una parte politicamente essenziale lavorare sui contenuti, dall'altra ci sembrava una condizione necessaria per proseguire l'attività già del governo di larga coalizione, poi di media coalizione di Enrico Letta. Quindi fin dall'inizio il nostro punto, perché Formigoni dice è una cosa tra PD e parte ragionevole del centrodestra, diciamo che sul piano dell'esito delle elezioni del 2013 e sul piano delle rappresentanze parlamentari anche, in realtà poi c'è il coinvolgimento, ne discuteremo nelle prossime mezze giornate, della formazione che poi si è divisa, ma insomma della formazione montiana riformatrice nata, sì, attorno a un'agenda di contenuti, quindi, ed è questo che noi discuteremo con Renzi. Sono felicissimo che anche da parte dell'NCD si ponga l'attenzione finalmente sulla necessità di un piano d'azione nei contenuti. Ovviamente ci hanno impiegato credo 45 giorni. Della Vedova, molto brutalmente, secondo lei gliela fa Renzi? Perché l'obiettivo di arrivare a fine legislatura, devo dire, è oggettivamente molto ambizioso, date le condizioni politiche. Guardi, io credo che lui si sia posto, l'ha detto, l'obiettivo più ambizioso per sé e per l'Italia. Noi, proprio perché gli obiettivi devono essere ambiziosi per Renzi, per chi parteciperà a questo governo con lui come forze parlamentari, e per l'Italia è bene partire col piede giusto, e quindi è bene avere una chiarezza innanzitutto sui contenuti, e il punto è sempre quello che ha movimentato le settimane scorse, soprattutto dentro il PD. Cioè, la legge elettorale è essenziale per tutta una serie di ragioni e per impedire di tornare a un voto con un esito di paralisi. Sì. Le riforme costituzionali sono essenziali al buon governo, anche semplicemente le due individuate, cioè Camera e Senato che decidono una volta per tutte chi fa che cosa, Stato e Regioni che decidono una volta per tutte con chiarezza chi fa che cosa. Sì. Questo implica un tempo che non può essere un tempo vuoto, deve essere un tempo pieno di riforme economico-sociali e di protagonismo in Europa. Siamo, diciamo, quindi secco della vedova. Secco, ce la fa, non ce la fa? Può farcela. Grazie a Benedetto Della Vedova, portavoce di Scelta Civica, per essere stato con noi. Noi parliamo dell'Italia che si fa conoscere nel mondo e ancora una volta parliamo della grande bellezza. Vediamo se è pronto il servizio. Via. It was many years that Italian cinema didn't win this award, so I think it's very important for us, for our cinema. Ringrazia così Paolo Sorrentino, sottolineando quanto sia importante questo premio per il cinema italiano che da tempo non vince nulla, e continua la corsa del suo film La Grande Bellezza, premiato ieri sera a Londra come miglior film straniero alla 67esima edizione dei BAFTA, gli Oscar del cinema britannico. Dopo il Golden Globe e questo BAFTA crescono così ulteriormente le speranze, se si dimostrerà vero il detto che non c'è il 2 senza il 3, per la pellicola italiana selezionata anche nella cinquina come miglior film straniero agli Oscar americani del prossimo 2 marzo. Il BAFTA come miglior film è andato poi a 12 anni schiavo, diretto dal britannico Steve McQueen, e quello come miglior attore protagonista nella stessa pellicola, la Chiwetel Ejiofor. Il BAFTA come miglior attrice è stato assegnato invece a Cate Blanchett per Blue Jasmine di Woody Allen. Ma a fare incetta di premi è stato Gravity, l'avventura spaziale in 3D con George Clooney e Sandra Bullock, che ha trionfato come miglior film britannico, oltre che per la regia di Alfonso Cuarón, anche per la musica, il suono e gli effetti visivi. Adele Mirren infine ha dato il premio alla carriera. La dama del cinema britannico ha ricevuto infatti il riconoscimento niente meno che dal principe William in persona. Adriana Fracchia, Radio 24. E sole 24 ore. Chiusa l'inchiesta sulla caduta di Michael Schumacher. Non è stata rilevata alcuna infrazione a carico di chiunque. L'incidente è avvenuto fuori pista. Così il procuratore di Albertville, Patrick Quincy, che ha annunciato la chiusura dell'inchiesta sull'incidente occorso a Michael Schumacher sulle piste di Méribel il 29 dicembre scorso. La segnaletica e le informazioni sui limiti della pista erano conformi alle norme francesi in vigore, ha aggiunto Quincy. Dichiarazioni che avranno certamente un peso sulla definizione della vicenda sotto il profilo assicurativo. Intanto ricostruzioni di stampa in Francia e Inghilterra ipotizzano che possa essere stata la telecamera montata sul casco a provocare le gravi lesioni alla testa. L'ipotesi chiuderebbe quella che è apparsa finora una contraddizione inspiegabile. Vista la bassa velocità, seppure fosse caduto bruscamente, come ha potuto essere l'impatto sulla roccia tanto forte da spaccare il casco e provocare le gravi lesioni al cervello di Schumi? Forse la telecamera potrebbe aver agito da punteruolo, concentrando l'energia dell'impatto su un punto. I materiali utilizzati dal campione tedesco sono stati esaminati fin dai giorni successivi all'incidente dal laboratorio della scuola d'alpinismo di Chamonix. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ancora qualche giorno per sciogliere la riserva, dice Renzi dopo l'incontro con Napolitano, e poi presenta un programma per una riforma al mese fino ad arrivare a maggio, a quella del fisco. L'emergenza è quella occupazionale, dice il premier incaricato. La Sardegna al voto ieri, affluenza bassissima, i dati sono molto in ritardo, scrutinate il 10% delle sezioni. Nuovo calo per lo spread, rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni, ai minimi dal gennaio del 2006. Si chiude l'inchiesta sull'incidente di Michael Schumacher, l'avete sentito, nessuna infrazione, è tutto avvenuto fuori pista. È il momento della borsa. Borse in diretta. Borse che oggi sono parzialmente negative, il FTSE MIB si avvicina alla parità, meno 0,03%, FTSE All Share più 0,01%, negativa anche qua a Parigi, ma siamo anche qua a ridosso della parità, meno 0,06%, Francoforte in guadagno dello 0,10%, Londra dell'1,04%. C'è Ocondina, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Il buon andamento dello spread e dei titoli di Stato italiani, i cui rendimenti, l'abbiamo detto, calano ai minimi dal 24 gennaio del 2006, non sembrano aver confortato particolarmente i mercati oggi, almeno i nostri mercati. Ma diciamo che i mercati già venerdì hanno avuto una grossa impennata, soprattutto per quanto riguarda Piazza Affari. Piazza Affari aveva guadagnato più di 1,5%, oggi ha aperto molto bene e poi si è un po', diciamo, hanno prevalso un po' le vendite, infatti l'indice è attorno alla parità. C'è tuttavia da rilevare che i titoli finanziari sono ancora molto ben intonati, questo grazie anche allo spread, insomma. Questo il quadro generale, singoli titoli da segnalare. Ma diciamo che titoli che vanno bene, c'è Mediaset che guadagna un buon 2,8%, qui continua l'effetto Champions League. Proprio una settimana fa il gruppo del Biscione aveva annunciato di aver rilevato, diciamo, i diritti per trasmettere in esclusiva la massima competizione continentale dal 2015 al 2018, un gran colpo. Infatti da quel giorno il titolo ha guadagnato il 10%, ai massimi dal 2011. E poi c'è Luxottica che fa più 2%, Luxottica che aveva perso giovedì e venerdì terreno sull'ipotesi che la sua storica guida Andrea Guerra, il suo AD, potesse andare nel governo Renzi. Poi ieri è arrivata la smentita di Guerra, che ha detto resta a fare il mio mestiere, e immediatamente Luxottica rimbalza in borsa. Grazie a Ceo Condina, Radio Corriere del Sole 24 Ore. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. In questa giornata ampiamente dedicata alla politica, naturalmente vogliamo però anche allargare lo sguardo e andare all'estero, andare per la precisione nella Repubblica Centrafricana. Che cosa sta succedendo? Amnesty International nei giorni scorsi ha parlato di una vera e propria pulizia etnica dei civili musulmani che sarebbe in corso nell'ovest del paese, nel più completo disinteresse, ha detto Amnesty, delle forze internazionali. Sta succedendo appunto che i civili musulmani sono sotto attacco da parte di milizie di autodifesa cosiddette anti-balaka a maggioranza cristiana, responsabili di omicidi, violenze e abusi appunto nei confronti di questa comunità musulmana. Abbiamo con noi padre Francesco, che è responsabile della missione dei Carmelitani Scalzi a Bangui, capitale del Centrafrica, al quale chiediamo innanzitutto com'è la situazione adesso. Allora, diciamo, la situazione precedente, che è successo nei mesi passati, presumo un po' lo sappiate. Diciamo, in questo momento la situazione è relativamente un po' più tranquilla rispetto a qualche settimana fa. Però ci sono ancora delle zone di tensione, dei quartieri nella capitale e alcune città nella provincia, dove c'è ancora uno scontro tra forze, diciamo, Seleka e quelle altre forze dell'anti-Balaka. La calma relativa è arrivata grazie un po' alla elezione del presidente, che è una donna, Catherine Samba Panza, quindi la situazione si è un po' tranquillizzata, però non è assolutamente ancora del tutto risolta. Senta padre, c'è chi ha sottolineato il fatto che ci sia uno sfondo religioso in questi scontri, c'è qualcos'altro, cioè solo questo, c'è qualcos'altro che ci possa aiutare a capire e a identificare la cosa? La situazione è complessa, l'elemento religioso c'è, non si può negare, però non è stato quello che ha determinato il problema. Inizialmente è stato uno scontro per arrivare al potere, poi probabilmente ci sono anche degli interessi internazionali per le ricchezze del paese, questo nessuno lo può negare. Però l'aspetto religioso si è aggiunto dopo e ha peggiorato le cose. Però il Centrafrica era veramente un esempio di coabitazione felice tra musulmani e cristiani, quindi il problema è stato un po', secondo me, messo in modo artificiale, però ha veramente peggiorato le cose. e si è creato questo problema perché diciamo, la maggior parte dei membri della coalizione Seleka, quella che ha preso il potere, erano musulmani e facevano diciamo, le loro, prendevano di mira i cristiani. E poi la reazione è stata da parte di quelli che non sono musulmani, però i vescovi hanno più volte e con parole molto forti denunciato l'atteggiamento di questi gruppi, queste milizie, che non sono e non possono dirsi cristiani, quindi c'è una totale estraneità. Senta, c'è qualcuno negli ultimi giorni, forse impropriamente, ha paragonato la situazione in Centrafrica, nella Repubblica Centrafricana, a quella del Ruanda, dicendo è possibile che là avvenga un nuovo Ruanda. Lei vede una possibilità di questo tipo oppure no, almeno dal suo osservatorio? Allora, io spero di no e sicuramente se si guardano i numeri sono minori, nel senso che lì era un discorso etnico, quindi tra due etnie, e che in pochi mesi hanno fatto, mi pare, circa 800.000 vittime. Qui le cifre non sono alte, ma non così alte indubbiamente, e non è tanto uno scontro tra etnie, ma quanto piuttosto tra queste due bande, queste Seleka che hanno fatto le loro vittime, adesso gli anti-Balaka che stanno facendo a loro volta altrettante vittime. Quindi non, io direi che non si può parlare di genocidio. Certo, è esplosa una violenza che io personalmente non avrei mai immaginato. Senta, c'è preoccupazione, insomma sappiamo che le vittime in questo momento sono prevalentemente i civili musulmani, come abbiamo raccontato poco fa, e però c'è preoccupazione nella comunità cristiana, nella comunità che immagino ruoti anche attorno a voi, alla vostra missione? La preoccupazione è, il problema è come si uscirà da questo vortice di violenza. Ovviamente ci sono tanti cristiani che non appoggiano assolutamente quello che stanno facendo gli anti-Balaka e quindi vogliono ritornare alla situazione precedente di convivenza che c'era tra le due confessioni. E certo ci vorrà del tempo perché la ferita si è creata. Quello che è bello è che comunque ancora attualmente ci sono diversi musulmani che sono protetti da dei cristiani, sono protetti nelle chiese ancora attualmente. Adesso io non so dirgli bene come e dove, perché è una cosa che avviene è avvenuta un po' in tutto il paese. Grazie a padre Francesco, responsabile della missione dei Carmelitani Scalzi a Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana, e noi torniamo alle nostre cose, all'Italia e alla politica. Daniele Biacchessi, oggi si parla di Toto Ministri. In queste ore concitate l'inizio di una nuova legislatura guida Matteo Renzi, tra incarichi con riserva, veti incrociati e un clima di sostanziale resa dei conti all'interno del Partito Democratico, va in scena uno degli spot più in voga della Prima e Seconda Repubblica, cioè il Toto Ministri. In politica, come in ogni attività, i nomi si bruciano generalmente proprio mentre si rendono pubblici. Si sa che Matteo Renzi ha chiesto poltrone per politici del suo partito e delle formazioni che potrebbero sostenerlo, ma ha sentito il bisogno di allargare il parterre inserendo anche bei nomi della cosiddetta società civile. E allora Alessandro Varicco, Andrea Guerra, Gino Strada, Mauro Moretti, Franco Bernabè, Luca Cordero di Montezemolo e ancora Mario Barbuto, Livia Pomodoro, Andrea Proto Pisani, Guido Calvi. Non sappiamo se questi bei nomi erano più dei sogni nel cassetto di Renzi oppure qualcosa di molto vicino alla realtà. Sappiamo però che lo scrittore Alessandro Baricco, indicato nei giorni scorsi come possibile titolare del Dicastero della Cultura, ha preferito declinare l'offerta, rendendosi invece disponibili per generiche e imprecisate consulenze. L'amministratore delegato di Luxottica, Andrea Guerra, ha augurato tutto il bene possibile al futuro del governo, ma non ha comunque abbandonato anni di successi con la sua azienda per impegolarsi nel difficile ruolo di ministro dello sviluppo economico. Matteo Renzi aveva pensato anche a Gino Strada per guidare il Ministero della Salute, ma il presidente di Emergency resta al suo posto. Nessuna risposta giunge da Mario Barbuto, presidente della Corte d'Appello di Torino, Livia Pomodoro, presidente del Tribunale di Milano, Andrea Proto Pisani, importante avvocato di Firenze, Guido Calvi, avvocato, ex CSM, ex senatore dei DS, tutti indicati insieme alla guida del Ministero di Grazia e Giustizia. Sono tutti apprezzati uomini e donne del mondo delle professioni che però, esattamente come nel passato, all'atto della responsabilità si sfilano ad uno, delegando alla politica di palazzo e delle segreterie il compito di sporcarsi le mani e sporcarsi la faccia. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Dopo il lungo colloquio tra Renzi e Napolitano e il conferimento dell'incarico, il segretario del Partito Democratico si presenta ai giornalisti e dice: nella nostra idea c'è quello di fare una riforma al mese, ancora qualche giorno, dice, per sciogliere la riserva. La Sardegna è andata al voto ieri, l'affluenza è bassissima, come sapete, i dati stanno arrivando molto in ritardo, colpa della complessità del sistema e delle procedure, spiegano dalla regione. Vocalo per lo spread e per indimenti dei titoli di Stato a 10 anni, ai minimi dalla fine del gennaio del 2006. In preda ad un ratto, su una donna ha tentato di uccidere la figlia di 10 anni gettandola nella fogna, siamo in Sicilia, è stata arrestata. L'antitrust ha multato Ryanair e EasyJet, motivo mancata trasparenza sulle offerte assicurative facoltative. Oltre 1 milione di euro tra tutte e due le compagnie. È il momento di Mario Platero e di America 24. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. La neve continua a imperversare, o meglio ha continuato a imperversare. Pensate, abbiamo avuto varie ondate, cioè 2 giorni di neve, poi 1 giorno di pausa, poi altri 2 giorni di neve, poi altri 2 giorni di pausa. Dunque, nel fine settimana abbiamo avuto di nuovo una nevicata abbastanza potente. E quello che mi ha colpito sono i dati, perché in questi 10-12 giorni, in questa bufera di neve che ha avvolto anche il sud, oltre che la costa orientale, si sono contati oltre 20 morti, 120 milioni di persone colpite dal maltempo, 1 milione di persone senza elettricità, 50 miliardi di dollari di costi, 76.000 posti di lavoro mancati a causa del maltempo, 14.000 voli a terra prima dell'ultima bufera. Quindi a conti fatti, quando avremo i risultati di oggi, qui ve lo ricordo, e prima mattina, saranno chissà, forse 16.000, 18.000, pensate, una cifra record. Dal mese di dicembre a oggi 75.000 voli americani sono stati cancellati per via della neve. Meno male che oggi è festa, non ci saranno i problemi che ha avuto il sindaco di New York quando ha deciso di tenere aperte le scuole, quando c'è stata una delle bufere ed è stato attaccato ferocemente da tutti i genitori, Bill de Blasio, ve lo ricordo. Oggi è festa, è President's Day, e dunque molti andranno al parco, tranquilli, si faranno delle passeggiate, ma i mercati chiusi, l'America è tranquilla. E dunque questo mi consente di recuperare intanto una notizia importante della settimana scorsa, cioè la fusione che c'è stata fra Time Warner Cable e Comcast per 45 miliardi di dollari. The $45 billion Comcast Time Warner Cable deal would combine the l'annuncio è di quelli che fanno epoca, ecco, nonostante la neve, la tempesta, l'annuncio di Comcast, che è il più grande operatore via cavo negli Stati Uniti. L'operatore via cavo è quello che praticamente porta sia internet che il segnale televisivo, ha annunciato una fusione, o meglio l'acquisto di Time Warner Cable, che è il secondo operatore via cavo nazionale. È stata una battaglia intensa, una battaglia straordinaria, perché c'era anche un terzo pretendente, che era Charter, che faceva capo a Liberty Media di John Malone. John Malone è un altro grande personaggio leggendario dell'Infocom americano. Insomma, questi colossi si sono scontrati a colpi di decine di miliardi di dollari. Alla fine l'offerta di Comcast, che è controllata, e pensate, da una famiglia, dalla famiglia Roberts, sono ricchissimi, hanno decine di miliardi di dollari di patrimonio personale e hanno offerto 45 miliardi di dollari, anzi 45,2 miliardi di dollari per essere precisi, in azioni per l'acquisto di Time Warner Cable. Il prezzo è vicino ai $160 che richiedeva il management di Time Warner per essere comprata, ma è ovviamente lontano da quello che offriva Charter, perché Charter ha offerto soltanto $132. Ecco, ci sarà un problema di antitrust? Non credo che ci sarà un problema di antitrust, intanto perché venderanno dei pezzi e poi perché ciascuno di questi due operatori opera in un mercato completamente diverso da quello dell'altro, e quindi nel momento in cui garantiranno l'accesso ad altri produttori di programmi televisivi, beh, a quel punto non dovrebbero esserci problemi. Comcast, per darvi un'idea della dimensione e della potenza, controlla fra le altre cose la rete televisiva NBC, gli studios cinematografici della Universal e tutti i parchi giochi della Universal. Si chiude un capitolo importante nella storia dell'Infocom americano, se ne apre un altro, una piccola parentesi. Beh, io ricordo benissimo quando Steve Ross, che era uno dei grandi leggendari businessmen americani a New York una ventina d'anni fa, e annunciò, prima di aver comprato il gruppo Time con la sua Warner Brothers, che era la casa di produzione cinematografica, e creò la Time Warner. Dopodiché con Time Warner comprò la CNN. Time Warner nel frattempo si era diversificata nel settore via cavo e per integrarsi con internet a un certo punto comprò AOL. Ecco, quella fu un'operazione disastrosa. Comunque sia, il colosso Time Warner a un certo punto si separò, da una parte Time Warner Cable, che sparisce, e dall'altra Time Warner Media, che invece resta attiva e operativa. We've got some breaking news here on the breaking news desk at Bloomberg. I'm Olivia Stearns. We just want to let you know that Enrico Letta, the Prime Minister of Italy, has a... Ma voglio anche un po' raccontarvi come l'America sta reagendo alla notizia del cambio della guardia al nostro governo, le dimissioni di Letta del venerdì scorso, le consultazioni. Se ne sta parlando molto a Wall Street. Ci si domanda se davvero questa possa essere una svolta. C'è stato un segno, come dire, astrale positivo, perché Moody's, proprio venerdì, proprio nel giorno in cui Letta ha dato le dimissioni, ha migliorato l'outlook dell'Italia da negativo a stabile. Il rating resta lo stesso, Baa2, quindi un rating piuttosto basso. E questo ci consente di riflettere su quelli che sono i messaggi che giungono dall'America per il prossimo governo Renzi. The question is there a split between investors and voters? La cosa che mi ha colpito però, soprattutto sui giornali, è che l'approccio è stato un approccio un po' incerto. Dice, ma come, cade un governo che era lì da appena 10 mesi, ne viene un altro, e questo signore era un sindaco, all'improvviso diventa presidente del Consiglio, non è al Parlamento, insomma... C'è un po' di confusione, è fondamentale secondo me che dall'Italia si faccia chiarezza, ma soprattutto sarà fondamentale che nei primi 100 giorni, e questo è il messaggio che ho avuto da importanti protagonisti di Wall Street che ho interpellato proprio per sentire la loro reazione a questa notizia importante, mi dicevano che nei primi 100 giorni Matteo Renzi dia prova di essere in grado di concludere, di passare all'azione, di introdurre riforme vere, perché Wall Street conosce bene la differenza tra riforme, per modo di dire, e riforme vere, quelle che appunto il sindaco di Firenze ha promesso all'Italia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Venerdì scorso era San Valentino e dunque, oggi vorrei pensare a coloro che sono riusciti a sopravvivere la festa di San Valentino, che hanno passato un weekend tutto sommato positivo e che ancora oggi restano appassionatamente innamorati. E dunque di Percy Sledge, When a Man Loves a Woman.